siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma cosa fai, baby? Mi alzo dal letto. E cosa fai, baby? E corro allo specchio. E cosa fai, baby? Adesso mi trucco. Fuori è quasi notte. Tra poco esco. Non so se lo sai, ma probabilmente non lo sai, caro Parenzo. Come al solito. Come al solito, che il signor Marrazzo tornerà a... Te lo ricordi, no? L'ex governatore della Regione Lazio, però, eccetera. Sì, tornerà a fare un programma alla Rai. Non entri, entraci per forza, ma questa qua è la zanzara, non è che puoi... Non entro nel fango, prego. Ma non c'è fango, è un processo. Allora, ha annunciato l'altro giorno che tornerà a fare il signor Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio, coinvolto in una storia di danza. Già grande conduttore di programmi, eccetera, eccetera. Comunque, tornerà a fare un programma alla Rai, un programma di attualità. Era vittima... Che si chiama... Marrazzo umana, stai zitto un attimo, che è stata una vittima di quella cosa. Però. Allora, signor Marrazzo, c'è un processo in corso. Ovviamente lui nega tutto. Senti cosa ha raccontato un transessuale oggi in aula. È mai stato, ricordo di essere mai stato in un edificio che recava la scritta Regione Lazio. Guarda, io è stato in ufficio, mi ricordo, però. Era la sera, la mattina da sera, pioveva, io stavo fatta, io stavo drogata, non conosceva bene la strada, però Marrazzo mi ha portato in ufficio, era un ufficio grosso, quando è arrivata lì mi ricordo, lui mi ha portato lì e preso soldi, c'è una stanza che c'è un sacco di libri. Libri. Lui andava lì, prendeva soldi di 500, metteva in casca e diceva va bene, allora andiamo a casa sua. Ma lei quindi ricorda di essere stato in questo edificio che recava la scritta Regione Lazio? Sì, io ho stato lì sicuramente 200%, non 100%, però non mi ricordo perché era la sera. Vabbè, questa ha detto che ha ricevuto un sacco di soldi da Marrazzo, di essere stata alla Regione Lazio, che si facevano di cocaina, eccetera, eccetera. Ovviamente i legali di Marrazzo negano tutto, vogliono denunciare questa trans, la signora trans Paloma. La signora Paloma. Anche noi abbiamo le trans che invitiamo. Sì, scusa, perché Paloma adesso è meno credibile degli altri. Comunque, no, vedremo. Per carità. Certo, è strano, lui annuncia di voler tornare alla Rai, al processo la signora Paloma, la trans. Appunto. Paloma. Bravo. Ho capito, è strano. Appunto. Però. Ho capito perché. Appunto, è solo, strano, no? C'è qualche cosa, hai detto tu, no? Solo i testimoni. Cioè, però puoi dire almeno una cosa. No, che non voglio dire niente. No, non voglio dire niente. Dai, non impasto. No, il povero Marrazzo. No, agli ascoltatori. Non do impasto così, nulla. Via, ho detto che lui nega tutto e vuole denunciare per calunnia la trans. Perché lui è Paloma. Parte lesa. Oddio, non mi interessa adesso ricostruire tutto. Come lotta, signor Crociani? Dai. Già in apertura, no? Dico io. Dai. No, Bugini, no. Ma oggi ci sono un sacco di cose in realtà in ballo, ci sono molte cose. Napolitano, signor Napolitano, se la prende con il Fatto Quotidiano, ma perché il Presidente della Repubblica se la deve prendere con un quotidiano? Può anche avere ragione sulla questione della grazia a Berlusconi. Secondo il Fatto c'è un patto tra Napolitano e Berlusconi sulla grazia, o quantomeno c'era un patto. Lui dice che sono ridicole panzane quelle di un quotidiano, del Fatto Quotidiano. Ma caro Presidente della Repubblica, uno non si mette a polemizzare col signor Padellaro, col signor Travaglio. Quello è il Presidente della Repubblica. C'è un giudice che dà ragione a Berlusconi oggi, eh? Sì, sull'assegno. E di mezza da 3 milioni di euro a 1,4 milioni. Certo, la signora Veronica Lario prenderà comunque 46.000 euro al giorno, è stato calcolato. 46.000, come te, Parenzo? Non è 46.000, al giorno. Al giorno, però, al giorno. Al giorno. 46.000. Ma cosa fa con 46.000 euro al giorno? Ma sai, sa come spenderli, un po' l'imberta in tasca. Ah, tu dici quando uno li ha, sa comunque come spenderli. Un po' se l'imberta in tasca. È stato scoperto il cane Dudu, da dove proviene, l'origine del cane Dudu. Lo ha regalato la Brambilla a Francesca Pascale. Lo avrebbe regalato. Fuori è quasi notte. Lei lo voleva chiamare Gennaro, la Pascale. Meno male Gennaro. Gennaro come l'ex capo della polizia, no? No, quello è di Gennaro. Ma che c'entra? Gennaro. Ma poi il cognome quello, mamma mia. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Maradona da Fazio ha fatto un po' come sordi ai lavoratori, te lo ricordi? Sì, sordi ai lavoratori. Lavoratori. Più o meno ha fatto la stessa cosa, anche se in sostanza Maradona ha ragione, come titola oggi Libero, solo che non ha fatto i ricorsi giusti. Altri nella sua posizione del passato, calciatori del Napoli, avevano vinto o comunque si erano accordati col fisco. Lui si è scordato, non gliene fregava nulla, era pieno di cocaina, non so dove, a Cuba, e non ha fatto il ricorso, perché questa è la realtà. Perché... Vabbè, ho capito, ma non è questo. Lo scioglie dalle cose. Sì, ma non so, 39 milioni di euro, in realtà i milioni di euro sono 6-7, poi come al solito il fisco ingrossa fino a 39, questo è lo scandalo. Lo scandalo è che una parcella da 6 milioni diventa 39, lo vogliamo dire o no? Lo vogliamo dire o no? No, adesso scusami, anche questo è lo scandalo. Anche questo è lo scandalo. Cioè, uno non paga le tasse, il fisco giustamente dice: non mi paghi le cartelle, io aumento se non paghi, e la colpa è del fisco. Brunetta. Fazio più colpevole di Maradona. Maradona e Maradona, nell'ultima vicenda. Il fatto che Fazio, da quel pulpito, da quella barbetta, non abbia stigmatizzato il comportamento di Maradona, il gesto fatto da Maradona, e anzi che sia scattato l'applauso al gesto di Maradona da quel pulpito, mi rende, come dire, più colpevole Fazio che Maradona. Poi dice di essere stato violentato, lo stesso Brunetta, da una giornalista. Senti, sono stato violentato. Praticamente violentato, sì, ma non violentato. Brunetta, ogni giorno voglio un Brunetta. Aspetta, mitico. Pensavo a cosa sta rendendo barbara questa società. Io, entrando qui, sono stato violentato da una gentile giornalista che voleva per forza farmi un'intervista, che avevo rifiutato alla sua capa un'ora prima, e con insistenza, poveretta, fa il suo mestiere. Sei concupito? No, non è questo il punto. Mi chiedo perché tanto imbarbarimento nei rapporti relazionali. Poi ha detto anche che siccome non è massone non ha mai fatto il ministro dell'economia. Ma lo sai che c'è un ex deputato oggi che ha detto che non ci sono paesi governati meglio del nostro? Poi lo sentiremo. 800 24 00 24. È con noi in questa follia Roberto Gervaso. Buonasera. Come sta, Gervaso? Come sta? Mister Papillon. La salute è uno stato provvisorio che non lascia presagire niente di nuovo. Ma in che senso, scusi? Di buono. Ah, come niente di buono? Lei ha 76 anni. Vivo una vita posto, ma reggo l'anima coi denti e muoio più tardi. Scusi un attimo, mi sembra 76 anni in piena forma, Gervaso. In piena firma. Ma come in piena firma? Che vuol dire? Che continua a scrivere. Che continua a scrivere, forma, d'accordo. In piena firma. Sì, momento che faccio lo scrittore, sono no, d'accordo, scusi Gervasio, ma lei ha la stessa età di Berlusconi in pratica? No, Berlusconi ha un anno più di me. Ha un anno più di lei, ma lei starebbe con una donna di 26, 27, 28 anni? Ma una donna di 26, 27, 28 anni non vorrebbe con me. Beh, in che senso, scusi? Però... perché non ha lo stesso denaro di Berlusconi? Tu di Berlusconi. No, perché non ho la prostata. Ma anche Berlusconi, anche Berlusconi pare sia stato operato alla prostata, caro Gervaso. Lo so, ma io evidentemente sono stato più sventurato di lui. Lei dice non ha poi tutti i marchingegni o tutte, non cerca di rimediare lei? No, per me sia lei come uomo che la Belen come donna mi siete completamente indifferenti. Addirittura? Ma sì. da quanti anni è una donna lei completamente indifferente, scusi? Da quando ne avevo 63, quindi da 13 anni. Da 13 anni lei è totalmente out da questo punto di vista? dopo essere stato da tanti anni sono diventato out. È diventato, ma rimpiange quei tempi o non gliene frega niente? Oppure quello che non mi frega più niente, non mi frega più niente, perché non essendoci più desiderio, sì, non ho questi patemi, queste angosce, queste ansie, questi tormenti. Ma scusi, secondo lei, beh, allora bellissimo anche per te, Cruciani, no, c'è ma speranza questa, in futuro. Ma in che senso c'è speranza? No, scusa, Gervaso, Gervaso magistra vite. Scusi Gervaso, però le pare niente, possibile? Non ha più la passione per la gnocca, te l'ha tradotto, te l'ha detto. No, ma non c'è dubbio, però io voglio capire una cosa, siccome se ne dicono tante su Berlusconi, lei che ha passato il suo stesso travaglio, questa operazione alla prostata, le pare vero che uno possa avere tutta questa attività sessuale di cui si parla, secondo lei? Io però ho fatto 42 sedute di radioterapia che lui non ha fatto, quindi questo sicuramente hanno messo un po' in subbuglio il mio apparato vitale. Ah, lei dice che è diverso, c'è una situazione diversa, dice lei. Ma perché giù? Io non lo sento. Proprio giù dalla voce. Un ma po io non giù lo sento così giù, così giù la voce. Mi sembra il grillo parlante. È perché purtroppo le linee telefoniche sono quelle che sono, questo è il problema. No, ma tu sono lo sai, proprio giù con la tu lo voce. Sai che il signor Gervaso è stato quello in sostanza che ha introdotto Berlusconi nella loggia P2, nella famosa loggia P2 di cui tanto dice Berlusconi stesso. Ma non vi rendete conto, ma scusate, ma non vi rendete conto di cosa? Che sono cose successe 30 anni fa. Lo so, ma questa che ancora ormai questa è diventata una farsa, è diventato noioso. Beh, noiosissimo, ma non è vero. Però lo sa che si parla ancora di Ustica. È vero, sono stato io con questo. No, ma nulla. Ecco, no, ma figura, per me va tutto bene. Beh, per noi tutto va bene. Ma come avvenne la cosa concretamente? Perché non me lo ricordo più. Io sono giovane, Gervaso, me lo racconti un attimo. Io avevo scritto un libro su una raccolta di interviste chiamata Il dito nell'occhio. Sì. La portai a Gelli. Sì. Gelli vide l'arma, si chiama l'indice. Sì. E vide il nome di Berlusconi, mi piacerebbe conoscere. Io disse a Berlusconi, Gelli vorrebbe conoscerti. Ho preso Berlusconi e l'ho portato da Gelli. Tutto qui. Tutto qui. Ma lui era vice gran maestro, lei o no? Vice gran maestro. Io vice gran maestro, almeno se io ero vice. Io non sono mai stato maestro di nessuno se non di me stesso. Scusi, ma se ne, non ero vice maestro di nessuno. No, per chiudere questa cosa qua, sulla P2 si sono dette un sacco di cazzate, per dirla in maniera molto molto esplicita, Gervaso. No, è servita a un certo gruppo di potere per fottere un altro gruppo di potere, tutto questo. Ah, addirittura, e qual era il gruppo di potere che ha fottuto l'altro? La finanza laica e la finanza cattolica. Ah, la finanza, cioè la finanza laica che fotte la finanza cattolica? Sì, potrebbe essere viceversa. O viceversa, no, in questo caso è la Caritas, la P2, però scusa, sembra che sia la Caritas la P2. No, la Caritas, cioè, per cui secondo lei tutta la storia dell'organizzazione criminale è tutta una fandonia? Ma certo, è tutta una fandonia. L'unica cosa vera è che io ho partecipato al ratto delle Sabine e ho stuprato una Sabina. Chi era il capo della finanza laica che fece la guerra? Che fece la guerra? Cioè, chi è che alla fine ne trasse il maggior vantaggio da questa storia? Il personaggio, anche mediatico? No, lo Ior. Beh, lo Ior, allora non era la finanza, la finanza cattolica. Allora, la finanza cattolica che... Ah, no, quella laica era, no. Era il salotto buono, i Cuccia, gli Agnelli, questi signori che volevano impadronirsi del Corriere della Sera per 4 soldi, si sono impadroniti del Corriere della Sera per 4 soldi, condannando a 2 anni in carcere di Lodi e Angelo Rizzoli, che era per cui fu tutta una macchinazione persona. Una macchinazione da parte di questi qua, dice lei. No, ma macchinazione, nel mondo degli affari ci sono, in tutto il mondo ci sono queste lotte, queste lobby e queste lotte. Sì, però servì a questo. Abbiamo il traffico, torniamo subito. La Zanzara. Scusate se vi ho disturbati. Le zanzare. E siamo qui sempre con Roberto Gervaso, 800 24 00 24. Sentiamo meglio, Gervaso, come va? Sì, si sente meglio. Eccoci, finalmente, no. Meno male. Va. Senta, che ne pensa di Giorgio Napolitano che ha ingaggiato questa guerra tutta personale col signor Travaglio, col Fatto Quotidiano? Mi dia una sua definizione, uno dei suoi aforismi storici. Beh, questo non è un aforismo. No, è Napolitano è un ottimo presidente della Repubblica. Che però non bisogna dimenticare che i suoi geni sono geni comunisti e che lui nel 1956 applaudì alla come dire all'invasione dell'Ungheria. Alla rivolta, cioè alla rivolta, alla reazione alla rivolta ungherese. Ma che c'entra? E fu favorevole ai Garibaldi, però è un uomo di equilibrio, un uomo che sicuramente ha un occhio di riguardo per la sinistra. Quanto a Marco Travaglio, per lei chi è Travaglio? Come lo definisce lei? No, Travaglio è un fighetto di talento. Un fighetto di talento? Un fighetto di talento che si spaccia per allievo di Montanelli. Beh, no, è stato. Invece... Non voglio rivendicare delle primogeniture, ma sicuramente se c'è stato un allievo di Montanelli che ha scritto con Montanelli la storia d'Italia, sono io. Sì. È un uomo spiritoso quando scrive. Sì. Io mi auguro per la sua reputazione che sia in malafede quando scrive. Perché, dice lei? Vabbè, perché scrive pregiudizialmente. Lui vede un giornalista libero non ha mai dei pregiudizi, non ha mai delle ideologie e non ha mai dei dogmi. Appunto. E invece lui serve una causa. Lui serve una causa. Quale? Quale? Serve la causa dell'anti-berlusconismo. Lui serve la causa delle procure, che sarà anche una causa sacrosanta, ma che io non condivido. Senta, invece Renzi come lo giudica? Renzi è un cubista. Un cubista non è male, un cubista. Un cubista. Lui è un bluff. Sì. È un bluff, è uno che recita una parte che gli è stata scritta e la recita male. E non è una specie di è un puffo al plasmon. Un puffo al plasmon. Scusi, signor Gervasio, chi è che si salva oggi? Una persona che si salva, ci sarà o no? Guardi, se c'è una persona che si salva, io ancora non l'ho conosciuta. Grillo? Questa classe politica è ormai un caciucco rancido. E Grillo? Rancido. Da una parte c'è una destra che è una Macedonia di frutta, con troppo maraschino giudiziario, e c'è una sinistra che è una maionese, è un'insalata russa con troppa maionese impazzita. Questo è un paese che sta in piedi perché non sa da che parte cadere. Ma Grillo? Grillo? Ma Grillo recita la parte che qualcuno gli ha chiesto di recitare. E chi gli ha chiesto? Chi? Gli americani? Ma secondo me sono questi grandi potentati stranieri che vogliono colonizzare l'Italia, la stanno con colonizzando. E lo in passato per 2000 anni l'hanno colonizzata militarmente, territorialmente, politicamente, e ora la vogliono organizzare. Ma chi sono questi potentati? Che sono la Germania, l'America, la stessa Cina. Cioè, guardi, secondo lei la Merkel usa Grillo si per servono di Grillo l'Italia. Non ho capito in che modo. Guardi che Grillo ha preso 8 milioni e mezzo di voti. Uno non prende 8 milioni e mezzo di... No, perché vogliono colonizzare l'Italia, e questo è un sistema. Una volta si usavano altri sistemi, oggi ci sono questi sistemi. Cioè forniscono, che fanno? Danno i soldi? Non so se lo finanziano. Comunque lui è sicuramente etero diretto. Io non so se etero diretto. Dalla Merkel, se etero diretto. Ma com'è dall'America, etero diretto. Dal grande capitale cinese internazionale, questo non lo so, so soltanto che lui è uno strumento di qualcuno. Senta, ma esiste ancora la massoneria? Ma conta ancora? Ma chi lo sta secondo? Guarda, la massoneria, almeno quella che ho conosciuto io, storicamente ha avuto un grande peso nel 7 e nell'Ottocento. Sì. Poi la massoneria ha sempre contato meno, Mussolini la mise fuori legge, e oggi? Poi è rinata ed è secondo me ha perso il oggi non conta più niente. Secondo me non conta più niente, anche se in passato ha avuto passato soprattutto nel Risorgimento ha avuto una funzione. Senta, dia un consiglio a Berlusconi, lei che lo conosce, insomma, una vecchia frequentazione, come dire. Gli do il consiglio a Berlusconi di lasciar perdere tutto, di andarsene vede Socrate fu condannato ingiustamente e gli diedero da bere la cicuta. Lui poteva fare ricorso e non lo fece, dicendo le leggi di Atene saranno anche leggi sbagliate, però sono le leggi del mio paese. E dunque? Quindi lui dovrebbe accettare la sentenza e ritirarsi a vita privata a vita privata, a 77 anni, si avvia per i 78 anni. C'è una bella ragazza, no? Come compagna. C'è una bella ragazza, un bel cagnetto, non ha problemi di vitto né di alloggio. Certo. Quindi dovrebbe... Lasciar perdere, troppo stress. Abbiamo il giornale radio, grazie a Gervaso. Ottima trasmissione, sempre la migliore. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Mi ha beccato. Ehi, il grande Buttiglione qui alla Zanzara ricordava. Professore. Cosa è questa trasmissione? Cosa è questa trasmissione, amici miei? Sentite cosa dice il deputato Gianluca Bonanno. Gianluca ancora? Bonanno, il mitico. Com'è che lo chiami tu? Già sindaco di Varallo Sesia, Good Ass. Buonanno. Good Ass Hall si dice. Good Ass Hall. Sì, Bonanno, tu lo chiami per pigliarlo in giro? Per prenderlo per il culo? Bonanno. Nei prossimi giorni, scrive l'onorevole Gianluca Bonanno, no, certo. Nei prossimi giorni parlerò con il ministro dell'interno per sapere, no, se non ritenga opportuno, aspetta, censire e schedare tutti i rom, no, gli zingari, i nomadi, perché ciò che è successo in Grecia... Schedare, dice. Schedare, censire e schedare, dice. Messo anche in maiuscolo in questa missiva. Razzismo. Censire e schedare tutti i rom, zingari, nomadi. Perché ciò che è successo in Grecia potrebbe accadere, o forse già accaduto, anche da noi in Italia, sai, di quella bambina, no? Sì, sì. Inoltre mi chiedo come sia possibile che questa gente possegga auto costose, oro, gioielli, Rolex. Come fanno ad avere questi beni di lusso? Sicuramente non elemosinando o lavando vetri. Signor Gianluca Bonanno, ora va bene tutto. No, però secondo me censire e schedare le persone per uno Stato democratico è normale. Cioè non dobbiamo avere paura di censire e schedare le persone. Ma cioè, sono cittadini italiani molti di molti questi. Sono vivono nei campi conosciuti, costruiti dai comuni. Di che cosa sta parlando Bonanno, che ha perso un'altra occasione per starsene zitto e tirare l'acqua? Basta, ma che stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Ha ragione dell'utre. Dal giardino alla cantina l'ho inseguita, ti ho inseguita. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Ma gli mettete un po' di pannella ancora di Radio Radicale pagata da noi? Ce l'abbiamo? No, ce l'abbiamo, vabbè, intanto il titolo del TG3, dai, pagato da noi che discutono di cazzate, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Rosy Bindi eletta all'antimafia, PDL strappo inaccettabile, diserteremo i lavori, la neo presidente della commissione, riconoscano il voto. Alfano, la manovra non è il Vangelo, possibili modifiche in Parlamento, no a scissioni nel partito, ma tra le aliste e filo governativi ancora scontro. Il Quirinale, ridicola panzana, quella di un patto per dare la grazia a Berlusconi sulla clemenza, parlato con chiarezza. Letta, sull'immigrazione nessun compromesso al ribasso, l'Europa si muova o rischia di morire, richiedenti asilo in rivolta a Mineo. Legge di stabilità al via l'esame del Senato, pesanti perdite per le pensioni con il blocco dell'adeguamento all'inflazione, oltre 600 euro in 3 anni. Il garante della privacy Soro alletta, il governo accerti se la raccolta e l'uso di comunicazioni telematiche e telefoniche abbia coinvolto l'Italia. Per la Cassazione sulla strage di Ustica consacrata la tesi del missile, anche il depistaggio, scrive la Suprema Corte, ormai si considera accertato. Oh, c'è anche il deputato, quello con i sandali, il nostro amico Sberna, il quale ospite di Alessandro Milan in TV a 7 gold, guardatelo sempre. Non è equilibrista, no, sì. No, Funambolo, scusami, ma no, nemmeno quello, ma a meno di bene il programma. Le Funambolo, sbagliato, c'è cioè Funambolo. No, sbagliato. Nemmeno quello, i Funamboli. Funambolo, 7 gold. Funamboli si chiama, dai. Funamboli, 7 gold. Vabbè, comunque, Sberna dice, le coppie gay con i figli sono esperimenti di laboratorio, dai, su. Ci sono famiglie anche di coppie omosessuali, donne e uomini, che hanno figli, per esempio. Cosa sono quelle? Sì, sono un po' esperimenti di laboratorio, però sì, ci sono. Sarebbe meglio che prima di fare esperimenti di laboratorio si pensasse famiglie, un attimo. Ma perché esperimenti di laboratorio? Non so. Beh, insomma, ci sono anche studi uno può essere... molto qualificati che raccontano poi gli esiti della... Uno può stare con una donna, poi ha un figlio, poi si scopre omosessuale, si separa. Insomma, hai sentito, anche quelli francescani che prendono 2500 euro di stipendio possono dire delle cose assurde come le queste. Le corbellerie. Cioè, no, corbellerie, poi ognuno la pensa come vuole. Però, insomma, secondo me è una cazzata. Dai, su, onorevole Sberni, io ti voglio bene, ti abbraccio. Corbellerie. E mi stai molto, molto simpatico. So che ascolti questa trasmissione, sei spesso ospite, te ne fotti dei luoghi comuni, parli in maniera libera. Però dire che le coppie gay che hanno i figli sono degli esperimenti di laboratorio, portando delle prove scientifiche, te ne posso portare altre tonnellate dall'altra parte, figli nati e cresciuti in coppie omosessuali che sono tranquillissimi, che crescono in maniera normale, normalissima. Guarda te, ad esempio. Ma no, io sono nato in una famiglia normale, per carità, poi non ci sarebbe niente di male, però sono cresciuto con un uomo e una donna. Vabbè, però detto questo, magari sono cresciuto male, cioè guarda me come esempio contrario. Abbiamo detto intanto, no? No, tu vuoi dire che io, nonostante il fatto che sia nato da una coppia eterosessuale, questo volevo dire, che esattamente ho questo. Capito, ho capito, sì. Sono cresciuto male, sì, vabbè, sì. Cruciani, non devi dire cartate. Ma che cucù, scusate se vi ho disturbato. Ah, tu sei nello studio oggi che Pannella sì, distrusse. Che ha sfasciato, che sfasciò prima, no, dopo. Ma fammi sentire una cazzata ingresso di Pannella con Bordine, dai, fatemi no, sentire, non è dai, fatemi cazzata, sentire. È che è un po' sta, è sotto fatemi stress. Sentire, dai, su. Pagati con i soldi nostri si mettono a discutere di cose. Ma non è vero, fanno servizio pubblico sulla Radio Radicale, dai, di cose indicibili. Fanno servizio pubblico. Ma la gente non capisce, senti di cosa parlano, non si capisce nulla. Senti, c'entra. Aspetta. Incesto di Radio Radicale, Marco, tieni. Certo, grazie. Lo ecco. Guarderò con il allora, se lo vuoi cambiare. Sì. Se lo vuoi cambiare, sì. Allora guarda. Ma di cosa parlano in diretta? Il palinsesto di Radio Radicale ha una serie di programmi che vanno, ci sono tutte le associazioni. Non capisco, come vedi, è tutto no, io non vedo un cazzo, se mi permetti. E vabbè, tu non vedi un cazzo come dici. Questo gli ha dato il foglio col palinsesto di Radio Radicale. Perché si vede che lui si è arrabbiato. Ma dai, su, sì, dai. Ho capito, ma questo ti hanno portato un questo foglio e tu dici come vedi. Questo foglio. Non vedo niente per il momento, raccordo per gli occhi, eccolo lì. Eccolo là. Ma adesso dai, lui mi su ha buttato un foglio che mi è arrivato coperto dalla parte bianca. Siamo in diretta. E a voi che siete ascoltatori. Non batte forte dentro me, chissà se tu ritornerai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non no, purtroppo non sta rinchiuso in camera, cioè, magari, esce, parla, magari si fa insultare per strada. Non capisci un cazzo. Va bene, 800240024, Lino da Monza, buonasera. Oh, la trasmissione di Milan si chiama Funambolismi. Certo, poteva scegliere un nome un po' più comprensibile, dai. Per carità, comunque, vabbè, guardatela tutti. Funambolismi. Sette gold. Bravo. Lunedì, dai, Lino da Monza. Buonasera. Vada. Veloce, allora, veloce. Sono velocissimo, forse mezz'ora fa è sull'argomento di Marrazzo che rientra in TV. Ecco, il mio parere è che siete un pochino ingenerosi, perché insomma è già pagato, insomma. Esatto. E poi facendo anche i paragoni con quell'altro signore invece pubblico, uno ha fatto qualcosina nella sfera privata cercando di tenerla nascosta e l'altro invece l'ha osannato dicendo che questa è la morale nuova. Dunque? Mi sembra un pochino ingeneroso, comunque ci ridiamo su. Ma non ho capito, lei è d'accordo che torni in TV sia un Marrazzo oppure no? Non ho capito bene. Io sono d'accordo che Marrazzo faccia quello che possono fare le persone che hanno già scontato la loro pena pubblica e privata, insomma. A parte che non è stato condannato. Allora, non è stato condannato in nulla. Anzi, non è parte lesa, sì, lo voglio ricordare. Sì, d'accordo, però c'è da dire una cosa. No, ma c'è da dire una cosa. No, ma c'è da dire una cosa. Se ci fosse stato un esponente di centrodestra che deve tornare in televisione e in un processo in corso arriva un testimone, perché non è che i testimoni da una parte sono poco credibili e dall'altra invece sono dei santi, certo, no? Allora, certo. Che dice? Questo qua mi ha portato alla regione, sniffavo cocaina, mi ha dato 100.000 euro, un transessuale, una prostituta. Cioè, saremmo qui a dire però forse non è il caso che torni in televisione uno che ha un processo in corso alla RAI pagato con i soldi nostri, uno che ha un processo in corso non a carico suo, ma insomma in un processo una dice cose del genere, staremmo lì a dire invece passa tutto in cavalleria. Beh, Sebastiano dalla provincia di Torino, dai, su in cavalleria. Allora, ciao. Sì, dica. Allora, volevo fare il punto della situazione su fatto Maradona. Allora, premesso che è un furbo, premesso che tutto quello che avete detto è corretto, io trovo che sia indegno se si punti contro Maradona e non si punti contro altri che hanno saccheggiato questo paese, che dovrebbero dare altro che 36 milioni di euro all'Equitalia. Sì, no, ma nessuno punta il dito contro Maradona, perché non no, se lo filava nessuno, finché non è andato la questione dei soldi di Maradona al fisco. Ogni tanto esce fuori quando Maradona torna in Italia, ma non se la filava nessuno questa storia. Quello è andato là a fare il gesto dell'ombrello, ti è a Equitalia davanti a milioni di telespettatori, di fronte a un Fazio supino, di fronte a questo, come hanno rilevato tutti, persino Repubblica, che è il suo giornale di riferimento, e adesso se ne parla. Bisogna aggiungere una cosa, che i milioni erano 6, e questo è lo scandalo, che si è passati da 6 milioni di parcella, dei 6 milioni di cartelle esattoriale, a 39 milioni. Chi ci guadagna in più da tutto questo? Borsa. Ciao caro. La Zanzara. Oggi, David, sei stato in Parlamento, no? E lì si può misurare la distanza enorme. Siamo di qua, signor Renzi. No, ma la distanza... Che stai facendo? Scusa. No, c'è gente che entra. Che ma ho capito, mi vuoi parlare un attimo? Vuoi stare attento? Allora, sei stato in Parlamento oggi, no? E lì si può misurare la distanza enorme che c'è tra quello di cui si discute lì e il paese. Si discuteva oggi, erano tutti ad accapigliarsi, tutti a discutere. Capannelli c'erano, tanti sulla capannelli. Commissione antimafia. Sì, sulle vero. Elezioni della commissione antimafia, amici miei, ma cosa cazzo gliene frega a quello che sta guidando in questo momento, a quello che sta sul camion, a quello che sta sul taxi, a quello che sta a casa e sta ascoltando la Zanzara, di chi è il presidente dell'inutile commissione antimafia della Camera? Così? Perché lei dice così? No, inutile, perché la commissione antimafia è inutile, bisogna abolirla, cancellare, non serve un cazzo, via, abolire, cancellare, chiudere la CLEP. Ma come tutto il giorno, appunto, per dire il voto questo del PDL, dice no, se ce la Bindi noi non la votiamo, non andremo mai neanche a una seduta, cosa gravissima, appunto, peraltro. Appunto, ma che gravissima, ma allora, chi se ne frega? Ma in Parlamento, le istituzioni, ma scusa, viene la voce di Grillo, ma non volevo fare Grillo in questo momento, ma perché? Perché tratti così le istituzioni repubblicane? Dai, perché sputi su tutto? Ma non serve a nulla. Ma per cosa non serve? La commissione antimafia non serve a nulla. Ispettivi. Ma che poteri, ma lo sai anche tu che non serve a niente, no, bisognerebbe chiuderla, dai, no, su. Ma che, ma allora cosa fa il Parlamento? Io non ho capito, se chiudi tutto, se tu alle volte te le prendi, bisogna chiudere tutto. Walter da Pordenone, dai, su, la commissione antimafia va cancellata, dai, Walter da Pordenone. Sì, dica. Niente, io volevo tornare sulla questione Marrazzo. Scusi, signor Walter, lei è una persona normale, no? che lavoro fa? No, fatto l'avvocato. Faccio l'avvocato. A lei gliene frega qualcosa di che è il presidente della commissione antimafia? Mi dica la verità. No. No, benissimo, andiamo avanti. Ma che ride, è insensibile, non capisce. Ma non gliene frega niente di Rosi Bindi, di qualcun altro, non gliene frega niente al signor Walter da Pordenone, che fa l'avvocato. Il problema politico non ci deve interessare, chiaro. Che gliene frega della Bindi, di un altro, con queste altre del PDL che dicono che vanno via, da non partecipare ai lavori della commissione solo perché è stata eletta la Bindi con una maggioranza diversa. Ma che vuol dire? Ma chi se ne frega della commissione antimafia, che non ha mai prodotto nulla, nulla. Ma non è vero. Walter, dica. No, io volevo tornare sulla questione Marrazzo. Io non sono assolutamente d'accordo che torni in una trasmissione in prima serata del servizio pubblico. Sì, ma non è stato condannato per nulla, signor Marrazzo. No, fermo. Non è stato nemmeno provato, certo, anzi l'ha negato, so e quella storia delle auto blu. Non è vero che andavo con le auto blu a pranzo. Ma no, ma non mi interessa, ma quali altro? No, beh, no, quello sarebbe io grave. Solo. Non è giusto che ritorni in trasmissione, magari. Ma perché uno che è andato a trans, ha frequentato transessuale o ha avuto una vita privata un po' eccentrica, dai, rispetto ad altri, non può fare una trasmissione in televisione? Scusi. È stato coinvolto in una questione quantomeno squallida. Sì, ma è stato ricattato. Dai, c'è stato un tentativo di ricatto. Allora, sì. Vero che l'ha detto Parenzo e ha ragione, in questo processo lui è parte offesa. No, ma ho capito, ma però è stato coinvolto in una questione quantomeno squallida. Cosa dai. Non può tornare, non vabbè, può tornare. Questa è la sua opinione, ma però è l'opinione di Walter da Pordenone. Walter da Pordenone. Certo. Ma ho capito, ma è un cittadino come te, ma è un cittadino come te. Walter da Pordenone, no, che adesso ci dice cosa deve andare in televisione o no, semplicemente perché Marrazzo parte lesa e pare sia andato a transessuali con Brandona, no, è andato, dice pure lui con Brandona. Parenzo, si chiama. Vogliamo ricordare, oltre al fatto che è stato... Ma lei è mandata a transessuali, Walter? Prego? Lei è mandata a transessuali? Assolutamente no. Vabbè, ma non ci sarebbe niente di male in questo caso. Ma no, ma per l'amor... Ma guardi, allora, chiariamo anche questo. Gli omosessuali e i gay, nessun problema, o amici gay, nessunissimo problema. L'andare con i transessuali, se mi permette, è una questione diversa, dai. Perché, scusi? C'è del perché? Ma c'è del vizio, c'è della droga. Ma chi ha detto? Ragazzo, è un professionista, sì o no? Tutti drogati, i suoi programmi sono stati di successo, sì o no? Se il suo programma funzionerà, meriterà di rimanere in onda, altrimenti no. Ma di chi stiamo parlando? Qual è il metro? Guardare cosa fa la lenzuola. Non è corretto che gli allora Walter dica che cosa dice Walter, siccome questa storia è uscita fuori pubblicamente. Walter sembra che sia no, Walter, no, Walter, chi c'entra Aldo Grasso? È un cittadino e vale come te, e vale come te, vale come te, zitto, vale come te. Ma sì, certo, Walter, Walter dice vogliamo ricordare, mi fate fare un'altra riflessione. Sì. Vogliamo ricordare che almeno uno, ma mi pare da notizie di stampa più di uno, sì, dei transessuali coinvolti in quella storia sono morti? Vabbè, quello che vuol dire che c'entra Marrazzo, scusi Walter. Vogliamo ricordare che però lo sa cosa allora Walter cosa dice Walter? Walter dice in sostanza una cosa: siccome questa storia sulla vita privata di un giornalista che ha un ruolo pubblico è uscita fuori, lui lavora nella televisione pubblica, anche se lui non c'entra niente, siccome però è uscita fuori la storia di una vita personale privata discutibile, secondo me non è che non c'entra niente, però dai, un conto è la storia di droghe e di trans, storia di droghe è uscita fuori, dice Walter. Dice Walter che il signor Marrazzo nella televisione pubblica non dovrebbe condurre un programma. Non è che dice che deve essere cacciato a calci nel sedere. No, è seconda serata. Come serata, seconda cosa c'entra? Voglio dire, sì. No, ma ho capito, Walter ha un'opinione e bisogna rispettarla. Tu non sei d'accordo? Io a me non me ne frega niente. Per me può tornare tranquillamente. È andato a trans e se droga. Quanti lo fanno? Secondo Dabiella, buonasera. Per me può tornare proprio liscio come l'olio. Però non bisogna essere ipocriti. Se fosse stato qualcun altro di un'altra sponda politica, sarebbe stato lapidato. Secondo Dabiella. Pronto? Sì, dica. Vorrei salutare lei come legittimo erede di Francesco Maria Arouet. No, ma chi è Francesco? Io non sono erede di nessuno. No, era Voltaire. Sono erede di mio padre, di mia madre. No, Voltaire. Si chiamava Voltaire. No, mi sembra troppo. La verità all'enfant du monde era il suo modo. Vabbè, mi sembra un po' troppo, francamente. Mi dispiace, ma mi dispiace. Tantissimi ma cosa anni le dispiace? Non ho capito. Che le dispiace? No, mi dispiace che lei non l'accetti. No, ma comunque l'accetto volentieri, però insomma, mi sembra un po' troppo adesso, francamente. Voltaire. Così. Vabbè, comunque. Moltissimi anni fa, prendo, consigliere comunale, sì, no? E averne fatta la schedatura dei consiglieri comunali. Sì. Ora, non vedo sì, la motivazione per cui non possa essere fatta la schedatura dei consiglieri comunali. A mio avviso, cioè lei dice perché di non può essere fatta la schedatura di Rom, Zingari e Nomadi. Esatto, perché ma guardi che viene fatto, non è che non viene fatto. Le aggiungo una cosa. Dalla schedatura dei consiglieri comunali venne fuori che il sottoscritto, cose che non sapeva, era un figlio maschio di pura razza ariana. Ero molto felice di questo. A me non me ne fregava assolutamente niente. Però non volevo che questi dati fossero in un certo senso pubblicati in qualche modo. Quindi le schedature sono sempre esistite. Secondo, ricordo un'altra cosa. I Rom, caro signor, sono secondo, un popolo libero che gira dall'India da sempre e nei secoli. Sono Rom e Sinti, hanno tutti i loro diritti. Vabbè, allora? E hanno i loro doveri. Quindi non vedo il motivo per cui, per caso, il signor Buonanno Buonanno, ex sindaco di Varallo. Buonanno, sì, allora? Buonanno. No, Buonanno, Buonanno. Allora? Inventore dei vigili cartone. Vabbè, allora? È la massima. Come fosse Alessandro Volta. Voluto fare una schedatura di coloro i quali sono probabilmente ancora apolidi. Vabbè, senta, secondo, guardi, secondo me chiunque... Quindi già schedato noi, beh, caro secondo, d'accordo, ho capito, vuole stare zitto una... ma vuole stare zitto un attimo, non ce ne frega niente a noi della prefettura, eccetera. Caro secondo, ho capito, non è uno scandalo schedare le persone, non è questione... tutti devono avere un documento, non è che uno può restare qui senza un documento. Lui parla però di schedatura, come se ci fosse una schedatura a parte. Cioè, ecco, l'elenco degli Zingari, l'elenco dei Nomadi, l'elenco dei Rom. Questo, francamente anche a me, che sono uno che di più o meno di legge e ordine, mi sembra un po' troppo. Andrea da Lucca, buonasera. Andrea, mi sente? Sì. Dica. Sì, buonasera, dica. Grazie per la trasmissione, veramente simpatica. No, volevo precisare due cose. Una su Pannella, su Radio Radicale. Radio Radicale non prende una lira di finanziamento. Sì, pubblico. Sicuro, certo. Sicurissimo. Prende certo, questo no. I soldi è un contratto di servizio. Ma è uguale, sì, certo, sono sempre soldi pubblici. Non è uguale, viene pagato per un servizio pubblico che va bene, è uguale, dai, forza, andiamo. Non è uguale, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. È la stessa cosa, dai, non diciamo stupidaggini, è la stessa cosa. Rende un servizio, che fa anche un'altra radio pubblica, ma non me ne frega niente qui di intavolare un discorso. È una, prende soldi pubblici, punto e basta. Come lei ha ripetuto, prende soldi pubblici, sì o no? Risposta: sì. Le forme non mi interessano. Le forme non mi interessano, li prende per comunque. Per un servizio che svolge. Sì, certo, ma ci mancherebbe pure che li prendesse senza svolgere un servizio. Certo, altri no. li prendono semplicemente per essere in edicola. Radio Radicale li prende ma per svolgere un servizio. Cosa? Prende il servizio, prende i soldi. Va bene, Andrea, non mi va di fare una discussione qui su Radio Radicale. Poi venire in diretta le trasmissioni dalla Camera e dal Senato. Poi? Questa era una precisazione. Sì, poi, no, ma abbiamo la televisione, invece, abbiamo un'altra radio, abbiamo quello che vogliamo, non ce n'è bisogno. Poi? Se però viene pagato per quello che fanno. Poi andiamo. Maradona non ha evaso niente. Maradona non ha evaso nulla. Eccolo. Maradona non ha evaso una lira. L'unica cosa che non ha fatto... Non ha fatto ricorso per dei soldi che gli chiedevano. Ho capito, ma... Sì, ho capito, però alla fine, sempre di evasione si tratta. Non è evasione, perché la stessa... Allora, è un mancato, un eventuale mancato versamento al fisco dall'85 al 90 di 13... Un eventuale mancato versamento al fisco, una contestazione del fisco dal 1900... Una contestazione al fisco, ho capito, se tu non fai ricorso... automaticamente passi dalla parte del torto, io esatto, questo volevo dire, punto. Esatto, ci sono altre quattro persone che hanno fatto ricorso per la stessa cosa. Ho capito, ma non è che non fare ricorso è una cosa positiva, lui se n'è sbattuto perché stava a Cuba. No, non se n'è sbattuto, era ricoverato in gravi condizioni. Ma ho capito, ma avrà avuto i suoi legali? Sì, no, purtroppo... se ne fotteva di quello che accadeva in Italia, dai, su. È osceno. Andrea, è osceno che cosa? Questo. Che per non aver fatto ricorso uno deve pagare 39 milioni. No, ma è osceno il fatto che si passi da 6,7 milioni di euro, 13 miliardi all'epoca, a 39 di adesso. Questo è uno scandalo. Questo è uno scandalo. Ovviamente è uno scandalo pure che in una televisione pubblica, siccome noi facciamo tutta questa prosopopea sull'evasione fiscale, partiranno fra poco gli spot alla RAI, per carità, tutto perfetto. Dopodiché, televisione pubblica, prima serata c'è uno che fa tiè a Equitalia e il conduttore di riferimento del moralismo non dice un cazzo, sarà un problema o no questo qua? È un piccolo problema, piccolissimo, non è quello dell'evasione da 39 milioni, tra l'altro dopo aver dato a Berlusconi del frodatore fiscale la settimana prima con Brunetta, perché la settimana prima con Brunetta, signor Fazio ha dato il frodatore fiscale a Berlusconi, piccandosi pure, no, io non ho mai frodato il fisco, prendo il mio stipendio ma non ho mai frodato il fisco, riferimento a Berlusconi, davanti invece a un evasore, conclamato, cosa fa? Quello fa tiè e lui non dice niente. Oh, come sono carico questa sera, sono carichissimo, caro David. Abbiamo con noi il senatore Carlo Giovanardi. Buonasera, caro Giovanardi, come sta? Sì, buonasera, come va? Beh, combattiamo, siamo molto carichi, siamo molto carichi. Spero... Non scaricatevi per TV però. No, per radio, ma torneremo, non si preoccupi, non si muore, torneremo. Ne sono sicuro, a volte ritornano, dicono. Esatto, a volte ritornano, però speriamo che non sia in quel senso lì. Però io lo sa che accetto tutto, anche i sarcasmi, le critiche, anche feroci, siccome le faccio, le critiche feroci, accetto tutto, le ironie, tutto, non dico una parola, non rispondo, ma accetto tutto. Ci provo anch'io stasera. Beh, proviamoci. Secondo lei per esempio, dato del suo, Marrazzo, diciamo, caro Giovanardi, Marrazzo deve tornare in televisione, secondo lei, sulla televisione pubblica, il signor Marrazzo? Nella mia cultura una persona che ha commesso degli errori o comunque è stata coinvolta in vicende, una volta che ha pagato quello che deve pagare per gli errori o per le vicende in cui è stato coinvolto, non vedo perché non possa tornare a svolgere la sua attività di prima. Ma anche, dunque, secondo lei, è diventato improvvisamente buono Giovanardi di Parenzo, è incredibile. Aspetta. Però scusi un attimo, Marrazzo è ovviamente parte lesa in un processo, non ha nessun procedimento a suo carico. Ho parlato di errori. Ha commesso errori, d'accordo. Ma secondo lei, dopo quello che è successo, dopo il disvelamento della vita privata di una persona, no? Suo malgrado, certamente, può tornare a condurre un programma? Dico di più, io ho sempre sostenuto, per esempio, che quelli che stanno nelle comunità, nei CERT, sì, e quindi che sono entrati in un meccanismo di recupero. Di recupero, una volta recuperati, devono riprendere pienamente la loro vita familiare, la loro vita sociale, la loro vita lavorativa. Ma abbiamo anche famosi personaggi del mondo dello spettacolo che sono passati attraverso il tunnel della droga, ne sono usciti felicemente e giustamente, sono diventati grandi stelle dello spettacolo, perché hanno incontrato difficoltà nella loro vita e le hanno superate. E dunque? Dunque, secondo lei è normale che Marrazzo, conduca un programma in seconda sera? È il suo mestiere. Se avesse fatto il ferroviere o avesse fatto l'impiegato di banca o avesse avuto un'altra, qualsiasi altra attività, una volta superato il trauma collegato con questa vicenda, avrebbe ricominciato a svolgere la sua però attività. Però oggi in un processo... Muore di fame uno... No, certo, ma aveva comunque il suo stipendio, non è che era licenziato dalla RAI. Non ha commesso alcun crimine. No, peraltro. Ma per carità, io voglio dire semplicemente che se fosse stato al posto di Marrazzo un altro... esponente di un'altra parte politica, perché Marrazzo comunque è stato presidente di una regione della sinistra, non è che stiamo parlando di uno che è estraneo al mondo della politica. E oggi, dopo la testimonianza di oggi, questa è una storia antica. Io, per esempio, collegando l'attualità di oggi, dei problemi collegati alle minorenni, ai maggiorenni, ai minorenni, allo scandalo che per me tale rimane, di chi ha rapporti per esempio con minorenne, ricordo sempre che Pasolini in questo paese è diventato un'icona inattaccabile della sinistra, però so bene le situazioni nelle quali ha trovato la morte Pasolini e quali erano gli usi e costumi quei ragazzini di Pasolini. Però devo prendere atto che mentre in un'altra area politica che si fosse comportato così sarebbe stato disintegrato, totalmente disintegrato, appartenendo a una certa area politica culturale diversa, viene disintegrato la sua vittima. Però Marrazzo oggi no, ma ho capito, fuori Pasolini oggi, era un esempio. Allora, esempio Giovanardi, oggi un testimone al processo in cui è coinvolto anche Marrazzo come parte lesa ha detto che lui è stato più volte con Marrazzo alla Regione Lazio, nell'ufficio della Regione Lazio. Ovviamente lui ha smentito, anzi ha annunciato querela per calunnia, che sniffavano cocaina, che gli ha dato un sacco di soldi. Ora, per carità, sono cose che, su cui non si può giudicare così all'istante, però un altro avrebbe passato dei guai al posto suo, cioè comunque non avrebbe condotto un programma, forse. Dei guai. Ma su questo, l'ho già detto, l'Italia usa due pesi, due misure, a seconda che vengono coinvolti in determinate vicende personaggi di centrodestra o di centrosinistra. La sinistra si incattivisce e diventa moralista nel momento in cui vengono coinvolte quelli che ritengono essere avversari politici. Se la cosa invece coinvolge loro militanti, l'atteggiamento immediatamente cambia, è così. Senta un attimo, Giovanni, oggi c'è stato anche un accordo tra la famiglia Cucchi e l'ospedale Pertini di Roma, no? E poi la sorella di Cucchi ha detto anche che devono pagare anche quelli che lo pestarono, anche se poi, come dire, come sappiamo... Allora, io ribadisco, apprezzo l'accordo perché se fra la famiglia e l'ospedale, dopo che c'è stata una sentenza di condanna dei medici che hanno avuto la responsabilità della morte, si arriva a una transizione, la considero una cosa positiva. Considero del tutto negativo invece continuare a far passare una vita d'inferno a tre agenti e le loro famiglie che sono già stati assolti, che non hanno quello, responsabilità però, perché la giustizia l'ha detto. Ci sarà un processo d'appello, no? Certo, ma allora il processo d'appello vuol dire che non è bastato per questi poveri cristi avere già un rinvio a giudizio, avere un tunnel terrificante ed essere stati assolti. Adesso li trascineranno in appello, poi magari dell'appello li trascineranno in Cassazione, quindi passeranno la loro vita, malgrado la soluzione, che per esempio negli Stati Uniti sarebbe già definitiva. Quando Berlusconi fa appelli contro appelli, quindi io considero positivo l'accordo, mi dispiace questo accanimento nei confronti di questi tre agenti di custodia. Cioè il suo pensiero, in nome del popolo italiano, c'è una sentenza che spiega che loro responsabilità non ne hanno avute. E comunque secondo lei andrebbero, cioè l'appello non ci dovrebbe stare, cioè basterebbe la soluzione di primo grado. Ma noi avevamo passato, si ricorda una legge, che diceva che un cittadino italiano che in nome del popolo italiano viene assolto non può più per lo stesso fatto poi in appello magari essere condannato sempre in nome del popolo italiano. Secondo lei quanti... poi in Cassazione... sono stato il 5 d'agosto al funerale di quel signore di Massa Finalese che ha portato via i figli nel 97, sono 16 anni che non li vedeva, è stato assolto per la seconda volta in Cassazione all'inizio d'agosto è morto di infarto. Cioè lei dice che gli agenti della polizia penitenziaria potrebbero passare un calvario di questo tipo? No, dico che la giustizia italiana porta via 4 bambine a una famiglia 16 anni fa e dopo 16 anni devono ancora rivedere i loro 4 figli. Il quinto sta in Francia, che ha 10 anni con la mamma perché è rimasto incinta, e dunque è morto di infarto. E se questa è giustizia che prende una famiglia, la disintegra e dopo 16 anni e 2 assoluzioni in corte d'appello non ha ancora finito il suo calvario giudiziario, perché non si sa ancora se la seconda assoluzione in appello verrà di nuovo impugnata in Cassazione, mi rifiuto di definire una cosa di questo genere giustizia. Dunque, secondo lei le vittime sono questi agenti di polizia penitenziaria? Secondo me, a questo punto, la vittima è Cucchi, stato dimostrato dal tribunale che i medici non lo hanno curato come avrebbe dovuto essere curato. D'accordo. A questo punto credo che in un paese che avesse una giurisdizione civile andrebbero scagionati definitivamente. Gli altri sono stati assolti e finita lì. Scusi un attimo, ma la giustizia secondo Giovanardi. Scusi, senatore Giovanardi, ma secondo lei quanti soldi hanno dato alla famiglia Cucchi? Ah, non lo so, ho visto l'avvocato che dice che è una cosa che deve rimanere riservata perché per certi aspetti ha ragione, la vita umana non ha valore, però conoscendo l'Italia ho qualche dubbio che rimanga riservata. Come diceva Casi, quando una cosa la sanno due, la sanno tutti. Immaginate se lì è stata transata fra l'ospedale e la famiglia, sarà un segreto di Pulcinella. Sì, molto probabilmente sì. Senta, lei però l'altro giorno ha detto una cosa incredibile, che il sesso libero porta a più stupri. Più o meno, dai, io sto traducendo, ma però commentando il fatto. Ma come no? No, lei ha detto che la mercificazione del sesso, la mercificazione. Ma assolutamente no. La mercificazione del sesso. Ho semplicemente detto, in un caso che non sono entrato nel merito, no, lei ha detto Modena, che gli stupri di Modena, gli stupri di Modena. Tanto ecco, il procuratore capo di Modena oggi giustamente si è indignato perché ha detto c'è un'inchiesta in corso, ci sono coinvolte 5-6 persone tra minorenni e diciottenni. Non abbiamo ancora definito un quadro di cosa è accaduto veramente. Un attimo, quindi, che ci torniamo, che abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Non scaricatevi per TV però, solo per radio, mi raccomando. A volte ritornano, dicono con la famosa frase. La zanzara. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. La trasmissione Zanzara serve a mettere i piedi per terra alle persone che volano troppo alto, secondo me, certe volte si perdono un po'. Non mi mordere il dito. Alessandro Di Battista, esponente dei 5 Stelle, personaggio considerato tra i più belli del Parlamento, grillino ovviamente, se la prende con Maurizio Gasparri, c'è un vecchio contenzioso tra i due, il senatore Gasparri, vicepresidente del Senato stesso, eccetera, eccetera. Sentiamo. Dobbiamo decidere se consentire la prosecuzione di una vicenda giudiziaria che trae origine da alcune dichiarazioni rese da chi allora già era un astro nascente ed oggi è un faro illuminante di tutta la scena politica italiana. Mi riferisco presso secolo ad uno dei legislatori più meritevoli di considerazione e di rispetto. Mi riferisco, colleghi, ad un novello Licurgo, ad un redivivo Pericle, ad un risorto imperatore Adriano. Mi riferisco ovviamente a Maurizio Gasparri. Come lo prende per il culo, amico mio. Sentilo quando però fa anche delle allusioni a frequentazioni di Gasparri, Anche in privato, presidente, il Gasparri si è sempre comportato con modestia e con umiltà, senza mai strafare, senza mai voler apparire. Fu l'unico nella tristissima vicenda del governatore Marrazzo e delle sue frequentazioni che non volle infierire, che non volle approfittare delle sue disgrazie, ed anzi volle rimanere nel buio, in quella zona d'ombra dove non si conoscevano poche le strade per raggiungere un vicino ristorante e dove non si conoscevano affatto personaggi tipo Natalie, Jennifer o Brendona. Bah, bah, bah. 800 24 800 24, è con noi il senatore Carlo Giovanardi, ecco la interpretazione autentica delle mie 5 righe, lo leggo dall'ANSA. Cioè, non voglio entrare nel merito della vicenda clausuraria giudiziaria di Modena, dovrà chiarire in tutti i suoi controversi aspetti. Quello che ritengo insopportabile sono certe dichiarazioni fra l'indignato e il meravigliato, come se fosse possibile 364 giorni all'anno dileggiare ogni regola e ogni principio educativo. Ma che vuol dire? Però non ci riesci di la cosa. Finisco presentando la sessualità comune dei tanti bene di consumo e poi scandalizzarci se i ragazzi non si rendono neppure conto dell'inaudita gravità di certi comportamenti. Se si sgancia la sessualità da un rapporto di amore e di rispetto reciproco, svalutandola a livello di semplice divertimento, non ci si può illudere di risolvere tutto con la repressione penale. No, però scusi, lei cosa vuole dire? Che se siccome al... Dico che sono rimasto sconvolto perché io abito a Modena, no? Da che cosa? E i ragazzi coinvolti in questa vicenda, come professionali modenesi, dicono: beh, che cosa è successo di grave? Cioè, ma come cosa è successo di grave? No, non è che ragazzi... Loro, i ragazzi coinvolti in questa vicenda, loro dicono, ma questa è la loro posizione. No, ma lei dice, scusi Giovanni, adesso lasci perdere loro. Lei dice che siccome il sesso ormai è trattato... Siccome il sesso ormai è trattato... Non conto della situazione, della gravità di quello che è accaduto, perché o finisce con 8-10 anni di carcere per ognuno di loro, o finisce che una ragazza, davanti a tutta la città, finisce in qualche modo mascheriata. No, per quello che il procuratore si è indignato. Però scusi, lasciamo perdere. Giovanardi, scusi. Riservata. Scusi un attimo, Giovanardi. Lei dice, le sue valutazioni sul sesso. Lei dice che siccome il sesso è ridotto ormai a una merce, a un bene di consumo, allora non ci si può stupire se poi ci sono gli stupri. È così? No, non gli stupri. Questo che sia uno stupro, chi l'ha detto? Secondo lei non è stato uno stupro? Ma non è stato uno stupro, secondo lei? Nel 96 io ho fatto una battaglia parlamentare di ostruzionismo perché le donne del Parlamento volevano rendere lecito il rapporto fra i diciottenni e i dodicenni, compreso quello omosessuale. No. E allora? E vincemmo la battaglia perché stabilimmo che un bambino, io dico un bambino di 12 anni, non può avere un rapporto con un diciottenne dicendo ma era consenziente. E invece abbiamo cambiato la regola e l'abbiamo portata, che l'esimente c'è solo se sono coetanei il tredicenne con il quattordicenne, c'è una distanza. Però di due scusi, anni. Per secondo lei non è stato uno stupro quello di Modena? Ma scusi, se il procuratore capo sta dicendo che le indagini sono in corso e devono determinare che cosa è accaduto, se lo dice il procuratore capo, lei ha la bacchetta magica, era lì col video, sa già quello che è successo, inizia adesso un iter doloroso per tutti. Per andare a verificare che cosa è successo, e noi abbiamo già la sentenza. No, d'accordo, però quello che è successo è grave a prescindere. Ma sono le sue considerazioni che scusi Giovanardi, lei mette in dubbio che il caso di Modena sia un caso di stupro collettivo. Ma non lo so, non metti in dubbio, ma come faccio a saperlo se anche il procuratore capo è lì, c'è una che vittima. Dice, stiamo facendo le indagini per capire che cosa è successo. Secondo lei c'è una vittima e una famiglia che diciamo ha denunziato la cosa. Ma questo non vuol dire nulla in teoria, no. Scusate, spesso è successo, che uno ha denunciato lo stupro e poi non era uno stupro, d'accordo. Ma tantissime volte, ma io vado buono, molto più in là. Io dico che tutti quelli che sono coinvolti in questa vicenda, che andrà chiarita, e non entro nel merito, c'è la magistratura che lo deve fare, rischiano di rovinarsi la vita, sia nel caso che sia uno stupro, sia nel caso che non lo sia. Giovanardi, ma qualche volta il problema è a 16 anni, comunque, determinati comportamenti sono comportamenti che comunque mettono a rischio, ma anche psicologicamente, ma anche nel caso del quello che non volevi il rapporto col dodicenne, perché il dodicenne che ha un rapporto omosessuale con un diciottenne con 6 anni di età, cioè ancora un bambino, ho qualche dubbio che dice ma era consenziente. Vabbè, quando quello sarà maggiorenne allora sarà consenziente, però quando ha 12 anni non lascio decidere il diciottenne che ha un rapporto con una bambina di 12 anni, diciamo, ma lei ci stava. Però Giovanardi, scusi un attimo, la cosa che vorrei capire è questa: secondo lei qualche volta secondo lei certi atteggiamenti delle donne, di alcune ragazze, possono provocare uno stupro? No, questa è un'altra domanda, assolutamente no. Io sto dicendo una cosa diversa, che a 15, 16, 17 anni immaginare il sesso come andare a mangiarsi una pizza, quindi avere rapporti con uomini o con ragazze o con coetanei, è una cosa che se non c'è un minimo di rapporto fra le persone, vabbè, un d'accordo, però io voglio loro, ma che viene considerato un qualcosa tipo usa e getta, dà dei problemi. Ma non è vero, ma gli stupri esistevano anche quando voi potete pensare. Ma gli stupri esistevano anche quando, scusi Giovanardi, gli stupri e la violenza esistevano anche quando il sesso. Allora, innanzitutto qui c'è una cosa da dire, che mentre lo stupro è passa una ragazza che salta addosso, qui la cosa sconvolgente è che erano tutti amici e compagni di scuola. E dunque? Cioè, è ancora peggio. No, però io le voglio chiedere una cosa. Secondo lei ogni tanto le ragazze facevano la stessa scuola? Ogni tanto le ragazze se lo va. È ancora più grave la situazione. Ogni tanto che possa venire, qualunque sia accaduta, qualunque cosa sia accaduta fra compagni di scuola. Ogni tanto le ragazze se la vanno a cercare, secondo lei, le donne? Ma no, ma assolutamente no. Ah, no, ma chi dice che se la vanno a cercare? Che ne so? Io dico semplicemente che se ci fosse un pochino più di ponderazione, cioè un pochino più di intelligenza ad affrontare certi problemi, quei sei ragazzi oggi non sarebbero sotto processo e probabilmente non avrebbero tutta la vita rovinata come avranno. Ma la non vita è che rovinata. Se uno intende il sesso in maniera libera, inevitabilmente si arriva allo stupro. Cioè non è che se uno ha un'idea del sesso. Infatti, il corto circuito. C'è il libertinaggio. Il libertinaggio non porta allo stupro, Giovanardi. Ma io sono d'accordo. Ma sarei il processo a determinare che cosa è accaduto. Beh, sì, ma quello è d'accordo. Non parto dall'inizio dicendo c'è stato uno stupro di gruppo, se no, giustamente o ingiustamente, ma perché non li ha sbattuti in galera? Perché il procuratore ha detto perché non c'erano gli elementi per arrestarli. Vabbè, senta, passiamo a un'altra cosa. Su Ustica, le cose stanno andando molto diversamente, come lo pensa lei su Ustica? Stanno andando esattamente nella stessa direzione, perché spero che in appello. Dove finalmente l'avvocatura di Stato si costituirà, porterà la sentenza penale e quindi metterà a conoscenza dei giudici civili che c'è una sentenza penale passata in giudicato che esclude totalmente la causa del viscile, se la esclude totalmente. Lei è ancora convinto che lei è ancora convinto si che occupa ci... di sesso e di stupri, no, si occupa di Ustica, si occupa di canne, mamma mia. Poiché stanno ballando 500 milioni di euro che noi dovremo pagare, lo Stato italiano dovrà pagare, che è sbagliato secondo lei, all'Italia, che è 500 milioni di euro è sbagliato secondo anche lei, che ci siano interessi giganteschi in gioco, non di Giovanardi, perché Giovanardi proprio di interessi non ne ha, ma ci sono interessi giganteschi, stiamo parlando di 1.000 miliardi di lire rispetto a una Cassazione civile che, ripeto, riprende una sentenza di un giudice onorario, neanche di un magistrato, è una vicenda complessa, un avvocato che a tavolino si è messo a scrivere una cosa che poi è andata in appello, che poi è andata in Cassazione, senza che, come è noto, l'appello abbia preso in considerazione la sentenza penale passata in giudicato. Allora posso chiedere a questi giudici che dicono è accertato il depistaggio dove, come e quando lo scriveranno visto che la Cassazione penale dopo 5 anni lo scriveranno. Ma allora per questi qua perché fanno queste cose qua? Sono vanesi questi giudici, sono protagonisti? Perché la Cassazione civile, come ha scritto onestamente la Corte d'Appello di Palermo, aveva chiesto gli atti del processo penale e non gliel'hanno mandati. Non gli hanno mandato gli atti del processo penale. Sì, non gli hanno, ma io aspetto ancora che il governo mi risponda come sia possibile che dopo un processo che dura 7-8 anni, 4.000 testi, milioni e milioni di euro. Ma perché non fa il consulente sulla vicenda? Ma guarda che è preparatissimo su Ustica. C'è una bomba morto, poi quando c'è un processo civile parallelo, la Corte d'Appello dice abbiamo chiesto gli atti e non ce li hanno mandati. Guarda che è preparatissimo. Io mi meraviglio che non le abbiano chiesto di fare il consulente. Guarda che su Ustica è preparatissima, non la puoi attaccare su Ustica. Scusi un attimo, c'è una verità giudiziaria diversa. Penale, dicono esattamente il rovescio. Giovanardi, diciamo, cambiamo argomento, e questo mi stanca, mi ustica un po'. Scusi, secondo lei, perché uno non si può coltivare a casa sua una bella piantina di marijuana? Io questo ancora non l'ho capito bene. No, su questo, allora, mentre su tutte le altre sciocchezze che dicono sulla legge in vigore, e che non riusciranno a cambiare perché quando andranno ma lasci perdere, secondo lei perché uno non si può coltivare una piantina di marijuana in casa? Rispondo alla domanda. Allora, per uso come personale. È permesso l'uso personale? E l'ho già detto pubblicamente. Se uno a casa sua c'ha la piantina, cioè il vasetto è un conto. Se uno come a Roma lo trovano dentro al tunnel con la piantagione. Vabbè, quello che c'è la piantagione, no. Allora, secondo lei uno si può fare la piantina di marijuana in casa? Se fosse proprio per consumo suo, da cedere ad altri. Ma che vuol dire cedere ad altri? Cedere ad altri perché un conto è il consumo personale, un conto è lo spaccio. Vabbè, perché d'accordo, ma se io lo do coltiva, a un amico, se io lo do a un amico. O ecstasy, o raffina cocaina, o si muove vabbè, ma quello è un altro discorso. E la cede ad altri è uno spacciatore, non è un consumatore. Ma lei perché non si fa una canna una volta per provare? Ma perché ho visto, consiglierei anche voi di guardare tutte le diapositive delle neuroscienze per vedere un ragazzino, il cervello a 18 anni, che incomincia a fare uso di canna. Ho capito, ma dopo 100.000 canne, non è che se uno ogni tanto si fa una canna non succede niente, Giovanna? Ma io sono andato ai tossicologi. I tossicologi italiani, tutte le società di tossicologia mi hanno spiegato gli effetti. Una volta a settimana non succede niente. Fanno vedere che ormai con le neuroscienze si vede gli effetti cerebrali che ha. Cioè lei ha paura di farsi una canna? Lei ha paura di farsi una volta una canna? No, non ho paura di farmi una canna. Non vedo perché devo danneggiarmi la salute, perché devo rovinarmi la salute nel momento in cui non ho mai fumato una canna e sto benissimo lo stesso. Va bene, anzi, quelli che sono davanti a certo nelle comunità, ne ho conosciute migliaia, magari dicono non avessi mai cominciato a fumare le canne o non mi fossi mai perché le canne portano di rovinarmi la vita. Le canne portano la salute. Secondo lei le canne portano all'eroina o alla cocaina, inevitabilmente? No, allora, il discorso è che chi non è che tutti quelli che fumano a fine e casino hanno detto noi ci siamo fumati uno spinello da giovane. Mica perché scusi, cosa accadrebbe a lei, secondo ma lei? Tutti quelli che arrivano, tutti, diciamo che il 90% di quelli che arrivano alla cocaina o l'eroina hanno incominciato con la vabbè, ma questo che vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire che c'è una patologia e una conseguenza. Non c'è nessuna correlazione. Ma guardate che io sono coerente. Credo che gli ascoltatori mi daranno atto che quando oggi vanno al ristorante, vanno al bar, vanno in un locale pubblico, possono mangiare e respirare, perché fino a 6 anni fa, ma prima che insieme a Sirke facessimo questa cosa, vabbè, ma quello era che era ancora il posto in cui uno moriva di tumore, si ammalava di tumore. Senta, cosa accadrebbe se fosse abolita la sua legge, quella Fini-Giovanardi? Mi dico una cosa. Subito, che una noi passeremmo dallo 0,1 di cronici che abbiamo in Italia, cronici, dopo, cioè 99,9% non lo è, e un'area di consumo complessiva delle droghe, compreso che l'ha provato una volta, del circa il 3%, 3-4%, arriveremo al 20% come l'uso del tabacco. Cioè, saremo un paese pieno di drogati? Saremo un paese in cui si aumenterebbe a dismisura. Ma non è vero. La popolazione che può usare, come è accaduto in Cina al tempo in cui gli occidentali gli imposero il consumo dell'oppio. Dell'oppio, tant'è che è vero, ancora in Cina oggi c'è la pena di morte, sono severissimi, perché un intero continente era stato distrutto. Cioè diventeremo come la Cina, con l'oppio, vabbè. Scusi, Giovanardi, lo fate questo gruppo, siccome devo chiudere, lo fate questo gruppo separato o no? Ma sai qual è la mia teoria? Hanno fatto Forza Italia. E allora, quelli che vogliono ancora non l'hanno Italia, fatto. Ancora non l'hanno fatto Forza Italia. Ma come l'hanno fatto? Hanno cambiato la sede, hanno chiuso il PDL. Ma lo fate questo gruppo o no? Quindi io sono per rimanere nel PDL e quelli che vogliono andare in Forza Italia vanno in Forza Italia. D'accordo, ma lo fate questo gruppo? Io ho già detto un mese fa che non andando in Forza Italia. Sì, ma lei ha detto che si faceva il gruppo, però non si è fatto sto gruppo. Beh, intanto c'è una realtà che anche ieri ha preso posizione, come ha visto in maniera d'accordo, molto chiara, ma lo fate sto gruppo concretamente o no? Vi staccate o no? Allora, la domanda che io faccio non a voi, ma che faccio ai responsabili di quello che era il PDL. Siamo PDL o siamo Forza Italia? Vabbè, ancora non si sa. Senta una cosa, ma lei può stare ancora in un partito con la Santanchè che dice che Napolitano è un traditore? Ci può stare ancora lei o no? Io ho grande imbarazzo oggi, in queste giornate, delle dichiarazioni che sono state fatte dalla Santanchè, ma anche da altri così pesanti, come ieri quando hanno offeso Quagliariello, quando una mia collega ha detto che Quagliariello è un traditore, insomma, quando vengono usati parole così pesanti nei confronti dei colleghi. Ma non è la prima volta. Ma pure lei non è che ci è andato. Dai, su. No, siamo? In una posizione molto difficile di convivenza. No, d'accordo, ma lei può stare ancora con la Santanchè che dice che Napoletano è un traditore? Allora, la Santanchè in televisione con me ha detto: io sono passato a Forza Italia, che è un partito dove c'è un capo. Cioè, lei non sta più con la Santanchè. Non è una collega di partito. No, è la Santanchè che se n'è andata. Io so dove mi hanno messo gli elettori. La Santanchè ha deciso di andare in Forza Italia. Ma lei ci può stare ancora con una come la Santanchè che dice che io sto con chi sta nel PDL. Poi prendo atto che se n'è andata. La ringrazio, buona serata. Prego. Pubblicità. Arrivederci. Ormai è tutto degradato. La Zanzara. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Allora, Pippo Civati, intervenuto ieri qui alla Zanzara, dice di avere pronunciato alcune parole in maniera scherzosa. Ora va bene, per carità, io l'abbraccio fortissimo, dice, va bene, dice. Va bene tutto, però a noi non sembrava che quelle affermazioni fossero scherzose, il contesto era scherzoso, la dichiarazione è stata rilasciata in modo ironico. Io potrei farle anche risentire, credo, quelle cose, se non ci sono, adesso magari le riprendiamo. Perché alla domanda precisa, lei lo farebbe il vice di Renzi? Lui ha detto, beh sì, perché no? Cioè lui vincesse, ha fatto pure un ragionamento politico intorno. Cioè ha fatto un ragionamento politico perché il partito... Ci starebbe anche, perché negli Stati Uniti è così, ad esempio. No, ma ha fatto tutto un ragionamento politico sul vice. La Clinton è la numero due, ma infatti dico, ci sta. Cioè non era tanto scherzoso, perché ma non era scherzoso per niente, ha fatto un ragionamento... Tu dici che palle, ma la Clinton è il numero due di Obama, no? Obama ha vinto le primarie e la Clinton fa il suo numero due. Quindi Civati è la Clinton di Renzi. Potrebbe essere, diciamo. Sì, potrebbe. Ma non è affatto scherzoso, perché ha fatto tutto un ragionamento, bisogna costruire un partito, tanto non me lo chiederà mai, ha detto, cioè era tutto tranne che scherzoso. Poi siccome si è reso conto di aver detto una cosa un po' delicata, ha detto ma tanto io comunque voglio vincere. No, non era scherzoso, chiariamolo subito, però insomma, chi se ne importa. Pietro da Pesaro, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. Un paio di cose, subito. Innanzitutto non voglio vedere più Marazzo. No, in continua televisione. Ancora. Era solo una battuta ironica, ma non è vero, cioè non era affatto ironica la battuta. Boh, adesso, sì, cioè, adesso mi arrabbio. Non era una battuta ironica, era un ragionamento. No, era un ragionamento. Non era una battuta ironica. Adesso lo facciamo risentire, cioè, lo comunichiamo anche. Non era affatto una battuta ironica. Così almeno, almeno che si sappia. Pietro. Pronto? Sì. No, dicevo, su Marazzo in televisione, non volevo vederlo più, vederlo, dopo quello che ha fatto. Ma che ha fatto, scusi? Dopo quello che ha fatto, ma ti rendi come conto? Fatto? Cioè, perché è andato a trans, perché è andato a trans e pippava cocaina, non può... ma con i soldi della regione? No, i soldi della regione no, perché non c'è stato nessun soldo della regione speso. Non c'è stato nessun soldo della regione, altrimenti sarebbe sotto processo. Dite per peculato, altre cose. Inesatte, sì, ma stai tranquillo. Stai tranquillo, perché tu quando vengono sputtanati, quando vengono sputtagliati gli altri non dici una parola. Stai tranquillo, fai parlare. Ho detto la stessa cosa. No, non dici la stessa cosa. Fai parlare. Sircana. Fai parlare. Ma che c'entra Sircana? Io parlo di altri, sempre quella parte politica. No, nessuno. No, no, perché quando succedono ingiustizie anche dalle altre parti. Senti, amico mio, lo lasci parlare o no? No, la vita dice inesattezze. Pietro da Pesaro. Non merita di parlare. Ma figurati. È normale che parla, ma certo, difende, lo difende perché è di sinistra. Un altro adesso faccio il black block della, comunque, della radio. Black block, sì, sì, è arrivato, sì, black block. Comunque, black block, a parte Marazzo, vorrei dire che il governo Letta è meglio che si scioglie. Vabbè. Perché 14 euro non li vogliamo, quel regalo. Va bene, Gabriele da Firenze, Pietro. Vabbè. Gabriele. Gabriele non c'è, Norberto da Lecco. Buonasera. Dica. Io invece volevo far rilevare quanto è strano essere italiano all'epoca attuale, perché devo sentire l'intervento prima di me dove si criminalizza Marrazzo che, per l'amor di Dio, abbia fatto le sue scelte, no? Poi se va in televisione il programma piace, bene. Abbiamo un settantenne pregiudicato che è stato con minorenni, per cui... ci ha fatto votare un Parlamento che erano di una nazionalità e quant'altro, e poi è dimostrato assolutamente che tutto il resto è falso, però no, lui deve essere garantito e capo di un governo. No, veramente non è capo di un governo, né mi sembra garantito. No, sto ipotizzando che la sua frangia politica lo vorrebbe al potere da qui all'eternità, sperando che cambi. No, ma lei cosa dice? Dice, stiamo discutendo del fatto che Marrazzo torni in televisione e invece c'è ancora Berlusconi che continua a fare politica. D'accordo. Paolo da Brescia, ho capito. Paolo. Buonasera. Dica. Giovanardi, io capisco che bisogna farlo parlare, che almeno la gente si rende conto delle puttanate che dice. Sì. Ma ne dice troppo grosse. In nel che senso che non può... È bigotto. Sì, però abbassi la radio, sempre... Paolo, abbassi la radio, faccia il piacere, su, e dai, e forza, macchina. Dai, ho capito. Allora? È un bifolk, allora è un bigotto, perché non può paragonare le droghe leggere, come sempre, alle droghe pesanti. Io sono anni che non fumo le canne. Quante canne si fa? Un paio di grammi al giorno. E non mi sembra di essere così rincoglionito come dice lui. Quante si ho fa al giorno? Non ho capito, quante canne? 4-5 canne al giorno, ma non mi sembra di essere un rincoglionito di beh, 4-5 canne al giorno, qualche problema al cervello lei ce l'ha, Sicuramente fanno male, ma come fanno male le sigarette? Sì, no, non è la stessa cosa. Fumo, 4 canne al giorno non è la stessa. 4 canne al giorno. Deve lavorare, quando le fuma? Cioè, come fa a lavorare con 4 canne al giorno? Cioè, si sveglia, fa il cappuccino e si fuma. Io ho finito di lavorare, sto andando a casa, mi sto fumando una bella canna. In macchina? È un criminale. Ma ogni tanto si fuma le canne pure in macchina, lei? Sto fumando. Ah, lei in questo momento sta fumando è una canna? È in macchina e sta fumandosi una ma canna. Ma che cos'è? Hashish? Che cos'è? Marijuana? Cos'è? Hashish, che probabilmente grazie a queste stupide leggi avrò, avrò dato i soldi ai criminali, perché alla fine... Però scusa amico mio, se lei va in macchina fumandosi una cannetta, ci dica almeno in questo momento dove si trova. Lo fai sempre anche te, smettila. Ma no, io l'ho detto che lo fa, io ho detto che in passato l'ho fatto, ma mai mi metterei in macchina né... Però ci non hai la patente per forza. Questo è anche giusto, ma non lo farei anche se avessi la patente. Ci dica però dove si trova esattamente ora, così facciamo un servizio sociale utile a chi sta tornando a casa, diciamo, di non presentarsi nelle zone in cui lei sta guidando. Faccio 200 km al giorno e non ho mai fatto un incidente. Fumandosi le canne, bravo. Vabbè, comunque lei non ha fatto un incidente, però Paolo, abbia pazienza, per me lei non deve essere né punito, lei può fumare tutte le canne che vuole, però non ci vuole, non ci può raccontare che facendosi quattro canne al giorno si vive meglio oppure non fanno nulla. È evidente che lei avrà dei problemi di qualche tipo, perché quattro canne al giorno qualche piccolo scompenso lo porta. Poi può fare quello che vuole lei, si figuri. È una suefazione come le sigarette, la prima. Ma non è come le sigarette, dai, su. Non è come le sigarette, dai, non è come le sigarette, farsi quattro canne al giorno, ma anche una al giorno comunque provoca ogni tanto dei problemi, lei se ne fa quattro, può provocare dei problemi cerebrali. A me dà più fastidio il fumo delle sigarette. Vabbè, quello è un altro discorso, pure a me dà più fastidio il consumo, a me piace, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia perché ho fatto finta di fare la Daleda per una vita, non mi sono mai fatto una canna, però l'odore delle canne mi piace molto più di quello delle sigarette, che è un odore orrendo, neutro. Senza dubbio. Ho capito, però quello che c'entra, non è che dico bene farsi quattro canne al giorno, no. Allora no, sentiamo, no. Sentiamo. Allora, neanche io dico che fa bene, come non fa bene fumare le sigarette, come non fa bene bere tre o quattro bicchieri di vino al giorno. Ma non è la anche qui non è la stessa cosa, dipende, non è la stessa cosa, dai. Allora, per quelli che dicono, compreso Civati, che scherzava quando parlava di fare il vice di Renzi, facciamo risentire, così uno si rende conto che non scherzava. Poi ripeto, chi se ne frega, perché la gente non si strappa i capelli, né ci sono le moltitudini in attesa delle decisioni di Civati, quando perderà, perché perderà, se fare il vice di Renzi o no. Però non era scherzosa la cosa, non era ironica. Sentiamo. Le farebbe mai il vice di Renzi? No, se Renzi dovesse vincere il congresso e me lo chiedesse, volentieri, perché no? Vediamo. Vi pare scherzosa la cosa? Dai, su, siamo seri. Cioè, non è che si metteva a ridere. Se Renzi vincesse il congresso e me lo chiede, perché no? E dai, su, caro Civati, non è che ci vuole coglionare, però. Gli spettri di chi ci vive e che va. Si gonfiano i piccioni. Va bene, borsa, dai, torniamo tra un attimo. La zanzara. Sei ancora a casa? Siamo qui, 800 24 00 24. Per completezza di tutto, non me ne frega niente, lo so, state guidando, non me ne fotte nulla di quello che ha detto Civati. Pippo Civati, candidato a segretario del PD, però era un ragionamento politico, non era affatto uno scherzo. Quando gli abbiamo chiesto lei farebbe il vice di Renzi se Renzi vincesse il congresso, lui ha detto perché no. Vorrebbe dire che io sarei arrivato secondo, evidentemente non terzo, vorrebbe dire che il PD comunque cambia direzioni sul governo delle larghe intese, vogliono dire tante cose, dipende da come ci si mette, no? Non c'è un accordo, io sono competitivo e d'accordo, molto diverso da Renzi, però un partito si deve organizzare. Non direbbe di no, non direbbe di no. Senta, invece mettiamo un'ipotesi. Ma non un po'. Credo che me lo chiederà comunque. Era un molto difficile, molto difficile. Da parte mia. Più chiaro di così, non so cosa, cioè, non scherzava, ha fatto un ragionamento, no? Se arrivassi secondo, un partito si deve organizzare. Dai, su. Ma poi sorridendo si dicono delle cose. Ma no, vere, ma insomma, voglio dire, ma non c'era nessuno che scherzo. Che ci sarebbe di strano poi? No, ma non ha fatto uno scherzo, capito? Non ha fatto, cioè, non ha risposto scherzosamente. C'è modo e modo, io so riconoscere quando è uno scherzo. Quando facevamo il gioco di chi metterebbe al ministro degli interni e come ministro degli interni, lì era chiaramente uno scherzo, un gioco. Ma perché si è arrabbiato oggi? Che ha fatto? Ma no, ma figuriamoci se si è arrabbiato. Ha fatto un comunicato stampa in cui ha detto, siccome probabilmente gli hanno chiesto, comunicato, ma come stampa. Lei concorre per fare il segretario? Corre per fare il segretario e poi dice che farebbe vice di un altro, di un suo avversario. Effettivamente, insomma. Luigi, provincia di Forlì. Non c'è. E allora che cavolo me lo mettete qua? Samuele da Verona. Sì, Gianni, buonasera. Sì, dai. Volevo solo dire, sono stanco di sentire cariche di alleggerimento. In merito alla manifestazione di sabato, c'erano 4.000 agenti di cariche di alleggerimento, per me sono pure poche, sì, le cariche, caro Samuele. Sì, no, ma infatti è quello che dico anch'io, cioè su 4.000 agenti, sì, e come dicono sono sempre i 100. Beh, devo dire che però 300. Pare che con il loro atteggiamento hanno evitato catastrofi maggiori. No, ma il discorso invece sarebbe, secondo me, da accerchiarvi, siccome dell'elicottero li vedi dove sono, metti una macchina civetta in modo che vadano tutti lì, li accerchi e li riempi di botte, ma forte! Un 6-7 mesi d'ospedale, beh, adesso, bene, caro, così, no, così anche quelli che vengono dall'estero, anche quelli che vengono dall'estero per le manifestazioni, sappiano che se vengono in Italia a rompere i coglioni, le prendono. No, ma quello ci vorrebbe una bella bastonata, a quelli che fanno le violenze, una bella bastonata seria, una bella ripassatina. Beh, perché ogni tanto i poliziotti si trattengono, caro mio. Invece ci vorrebbe una bella ripassatina, una ripassatina. Male che l'ordine pubblico non dipende da voi due. Lo so. Infatti, mi sento più tranquillo, diciamo, quando torno a casa. Sì, ma quando uno sfascia una vetrina, amico mio, deve essere preso. C'è il voto popolare della radio e degli ascoltatori che chiamano e dicono: vabbè, sì, dagli di più. No, non funziona così. Dove siamo qui? Luigi dalla provincia di Forlì, stavolta c'è o non c'è? Sì, c'è. Buonasera. Vada. Niente, volevo riallacciarmi al discorso delle canne, del ragazzo che si fa 4 canne al giorno. Sì. Che secondo me lui si sbaglia di grosso e non si rende conto. In che senso, scusi? Nel senso che io sono un ex fumatore, appunto, di canne. Di canne, sì. Non esageratamente, cioè io fumavo per divertirmi. Sì. E però ero, diciamo, in una specie di balaustra, di stanza chiusa, ecco. Perché quando fai quelle cose lì non ti rendi conto, è una specie di abitudine e ricorri sempre a quello per sentirti bene, per sentirti svagato, per sentirti rilassato, ecco. Invece praticamente non sei più te stesso, ma sei un'altra persona, a parte poi la vabbè, salute. Luigi, che guardi, che io non è che ho detto, non ho fatto l'elogio delle canne, a me non me ne frega niente, uno si può fare 10 canne, 20 canne, certamente non deve essere né curato né punito. Io non me le faccio, penso che facciano male, farsi tante canne al giorno faccia male. Se uno ogni tanto si può fare una canna non succede nulla. Poi ci sono fisici che resistono anche a 4 canne al giorno, siamo seri, poi dipende dalle persone. Ci sono fisici e cervelli che resistono. Ma le conseguenze ci sono per tutti. Vabbè, Lorenzo da Lucca, buonasera. Ma lo sai che buonasera. C'è uno di Forza Nuova che ha detto che il Ku Klux Klan è l'unica via ed è stato assolto? Ed è stato assolto di Verona, in tribunale. No, di dov'è? Di Vicenza. È di Verona, stato assolto, cioè ha scritto su Facebook che il Ku Klux Klan è l'unica via per limitare l'immigrazione, la presenza. Rispetto alle sentenze della magistratura, ma manderei volentieri a quel paese questo cosiddetto, cos'è? Segretario di Forza Nuova? Ma sì, segretario di Forza Nuova, non so dove, si chiama Sartori, Lorenzo da Lucca. Sì, su Marrazzo, ma approfitto col fatto che per una volta tanto si sente il Doberman con i denti di gomma piuma, che di solito non si sente un cazzo, stasera si sente, quindi uso Marrazzo per parlare con lui. Chi sarebbe il Doberman con sì, i denti saresti, di gomma piuma? Sarebbe lei, Parenzo, il Doberman con i denti meno male, di gomma piuma. Però manteniamo il lei. Bella la metafora, mi piace, bella. Sì, no, però è un peccato. No, è bella, l'immagine aveva... è finalmente bella. Bravo. Quando aveva i denti veri era molto più divertente. Un attimo, Parenzo, vai tu. Chi è questo? Sebastiano Sartori. Ah, adesso mi sente. Pronto? Sartori? Sì, chi mi cerca? Sartori? Sì? Sono Parenzo, Radio 24, La Zanzara. Lei è il signor segretario di Forza Nuova, giusto? Sono occupato, mi dispiace, non è ora. Sartori. Beh, amico mio, sei partito male però, sei partito molto male, perché se parti in questo modo, ma che te lo devo insegnare io? Se parti in questo modo è evidente che ti buttano giù il telefono, no? Ma perché butta giù ma il telefono? Perché Forza sì, nuova. Ma no, non ti cosa buttano, ti ma buttano giù il telefono. Ma dai. Di cosa hanno paura, scusa? Chi anzi, c'era una domanda? Collegato? Chi c'era collegato? Richiamalo. Sempre la gomma piuma di prima, Lorenzo, perché, vedi, allora se avessi attaccato, ma perché lei è contrario al ritorno? Perché lei è contrario al ritorno di Marrazzo in televisione? Io? No, a me non me ne frega un cazzo. Io dico questo: ho visto scandali 10 volte meno importanti di questo, enfatizzati da tutti quanti. Questo è uno scandalo, secondo me, reale, sotto gli occhi di tutti. Questo è un personaggio pubblico, non dà, a mio avviso, il buon esempio. Se rientra in TV o meno, non me ne frega un cazzo. se prende soldi pubblici o meno, non me ne frega un cazzo, perché tanto purtroppo non è eliminando Marrazzo allora? Che si risolve il problema. Il problema è, rivolgendomi sempre al Doberman di prima, perché per casi identici che vengono dall'altra parte o da parte non così identificata e schierata, non si usa lo stesso metro? Ho semplicemente fino alla noia ricordato che nel caso di specie il signor Marrazzo non è imputato, ma è parte lesa di quella vicenda. Ha pagato un prezzo, visto che si è dimesso pur non essendo indagato dalla Regione Lazio. È stato in un convento, non si è fatto vedere per degli anni, è rimasto lì e a un certo punto è ritornato alla RAI e la RAI gli ha offerto, visto che non l'aveva mai abbandonata perché era in aspettativa, e la RAI gli ha offerto di fare un prodotto, quindi non è né pagato in più né pagato in meno. Ha ripreso il suo posto che aveva come qualsiasi altro lavoratore che non ha commesso alcun tipo di reato e torna in televisione. Questo è lo scandalo che adesso voi state montando. Ma non stiamo montando. Oggi una signora transessuale in un'aula di tribunale, scusa, in un'aula di tribunale, una signora transessuale ha detto che andava alla Regione Lazio, pippavano cocaina e lui gli ha dato un sacco di soldi. È stata citata per calunnia, è stata denunciata per calunnia, verrà denunciata per calunnia, lui nega tutto. Però rispetto ad altre persone che vanno in tribunale a sputtanare gente varia, diciamo, si dà un credito maggiore. Dico solo questo, non ce l'ho con Marrazzo, figuriamoci, io non ho nulla contro Marrazzo e per me può fare tutte le trasmissioni che vuole, perché di gente che pippa cocaina e va a trans è pieno il mondo. Davide da Milano. Pronto, sì, buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Senta, ma è paese dell'assurdo comunque. Secondo me estremizzando dovrebbe addirittura rientrare in politica, perché non ha senso. Gli stessi che fanno la morale su Marrazzo sono quelli che hanno votato e votano e sostengono chi neanche dovrebbe mettere il naso in Parlamento per scandali, processi, eccetera, eccetera, eccetera. No, non ha proprio senso parlare di queste cose. E allora? A parte che è dal 2009 che è fermo Marrazzo. E allora non ci dobbiamo scandalizzare su Marrazzo. Che senso ha parlarne? No, ma che senso ha parlarne? Ci sono dei processi in cui lui, ripeto, è parte lesa, persone che parlano in tribunale, e quando si tratta di altre persone siamo qui a dire no, però i processi in corso, quello dice quello dice, non è che uno perché si chiama Marrazzo. Con ruoli diversi nel processo, diciamo, qui è parte lesa. Beh, un po' diverso essere imputati di una cosa o essere parte lesa, no? Questo almeno. Ma certo, ma questo l'abbiamo detto e ripetuto mille volte. Siccome il caso è del 2009 e siamo di fronte a un uomo, Marrazzo, che io ti assicuro non ho mai conosciuto, mai, quindi non siamo né amici, i tuoi amici. Nel 2009 questo signore si è dimesso dalla Regione Lazio senza aver commesso alcun tipo di reato, perché questo è l'altro punto. Va bene, l'hai già detto. Radio Belva vive e lotta insieme a noi. Beh, noi vogliamo mantenere viva la fiammella. Sì. Sai come fece il movimento sociale quando c'era la fiammella sotto? Paragone no. La fiammella sotto. No, questo paragone non è possibile. Io voglio mantenere viva la fiammella. Però ci pensano per noi altre persone. E allora a quelli che il calcio mi raccontano che a quelli che il calcio hanno fatto una parodia del sottoscritto di Radio Belva, ispirata poi anche ad un altro personaggio. Sentiamo. Fatto veramente in c***o come una bestia. E non hanno fermato l'immigrazione. Quindi non rompere il c***o, la verità. Altrimenti avrebbe il contrario, no? Radio Belva. Dopo le polemiche per Radio Belva, la politica, l'economia e l'attualità smorzano i toni e tornano in prima serata. Da lunedì su Style TV c'è Radio Belva, condotto da un maestro di pacatezza e stile, Leone di Lernia. Leone, sei un deficiente! Deficiente Leone di Lernia? Uè, pizzo di c***o! Ma ti sei visto in faccia? Di come f***o vivo? Certo che non sei altro! Radio Melma, con grandi politici in studio. Radio Melma, la politica in punto di fioretto. Leone di Lernia, Radio Melma. Onorevole! Sì? Sai chi l'ha saputo tanto? No, chi? Sto Silenzio la vecchia! Ci sta tutto, dai, ci sta tutto, tutto! Ma tu devi capire, Parezzo, che al Parlamento Europeo è arrivata la vicenda di Empi, il cane di Monti, Dov'è finito il cane di Monti? Se lo chiede preoccupatissimo, sì, il nostro amico Sergio Silvestris, europarlamentare del PDL. Buonasera Silvestris. Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo. Il grande Silvestri. Ma scusi però Silvestri. Io ti voglio bene Sergio, ti voglio bene, lo sai, anch'io alla pugliese molto. Ti voglio bene, lo sai, sei una brava persona, anche se sei gaspariano, per carità, i gaspariani sono una specie rara, va benissimo, per carità. Ma quello è un titolo di merito, anzi. Beh sì, potrebbe essere un titolo di merito, no, però come si fa a fare... Ma fedele e longeva. Cosa fedele e longeva? È una specie rara, ma fedele e longeva, quella dei gaspariani. Quella dei gaspariani, però parla a voce più alta, se no non si sente niente. Professor Silvestri. Allora, Sergio, cosa hai fatto? Hai presentato un'interrogazione al Parlamento europeo, non so dove, alla Commissione, sulla vicenda di Empi, perché vuoi capire che fine ha fatto il cane di Monti. No, io non voglio capire che fine ha fatto il cane di Monti, perché è un problema di Monti. Però quando un cittadino, peraltro un personaggio pubblico, che quindi dovrebbe dare un buon esempio, dice di aver avuto un cane, se l'era pigliato, ma dice di esserne stato infastidito di quel sì, toro, l'ha detto e ieri. Non dice che fine ha fatto sto cane, come è tenuto, una preoccupazione viene, anche perché un personaggio pubblico dovrebbe dare il buon esempio. Vabbè, Dago, ma ti pare il caso di scomodare le istituzioni europee? Dai, Sergio, su. Beh, se mi permetti la battuta, l'Europa fa già tante cose inutili, secondo me, secondo gran parte dei cittadini, quindi una più o meno. Ma ti avvicini un attimo a sto microfono, dove stai parlando che non si capisce niente? Ma dov'è, a Bruxelles? Sto al cellulare. Che ne so, sembra i miei collegamenti. Lo stacchi dalla bocca. Scusami, Sergio. Vabbè, dicevo. Però, che può fare la Commissione europea? No, spiegami, cosa dovrebbe fare secondo te? C'è la Convenzione europea per la protezione degli animali, che è stata approvata nell'87, quindi non ieri, che dice che ogni persona che tiene un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene, attenzione, siamo nella fattispecie di Enci, sarà responsabile della sua salute e del suo benessere. Ho capito, ma non puoi fare in modo, cioè cosa chiedi, che si muova la protezione degli animali europea? Chi si dovrebbe muovere? No, noi chiediamo ai sensi dell'articolo 4, che la Commissione europea verifichi che nel caso di anche ai sensi dell'articolo 4. A parte che non si sente niente, io non so Sergio dove stai parlando, ma non si sente niente. Ma allora, cosa dire ai sensi dell'articolo 4? Ma non lo so, lui chiede che la Commissione europea verifichi che fine ha fatto il cane di Monti e se sia in buona salute. Dai, Sergio, ma non fare perdere tempo. La Commissione deve verificare che il cane è tenuto nel rispetto della Convenzione. E quindi dice sempre la Convenzione: chi se ne prende cura deve rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente, procurargli adeguate possibilità di esercizio. Ma scherza. E prendere i provvedimenti, onorevole, perché impedisca che sia. Qua Monti l'ha fatto scappare invece sto cane. Ma che ne sa lei? Che ne sai tu? Che ne sai tu che l'ha fatto scappare? Ha detto che ha avuto sto cane, che ne è stato infastidito, e non ha detto se lo tiene ancora, ha glissato sulla risposta. Beh, però scusa, Sergio, è vero che ha ragione quando dice che ha mostrato fastidio nei confronti di questo regalo della Bignardi. Scusami, Giuseppe. Ma io do ragione a Silvestri. Ha detto se il cane ce l'ha ancora oppure no? No, non l'ha detto, non l'ha questo detto. Questo è grave. Non l'ha detto. Oh, vedi, questo è il problema. Vabbè, d'accordo, ma ti pare possibile investire la Commissione europea di una cosa del genere, Sergio? Dai! Io chiedo il rispetto di una convenzione europea, non è che ma chi deve rispondere, onorevole? Ma chi è che deve rispondere? Non ho capito. Mi sembra una cosa pertinente. Tra l'altro, ho fatto 700 interrogazioni in 4 anni. Anche questa mi sembra pertinente. Ma chi hai fatto l'interrogazione? Ma per spiegare a chi ci ascolta e torna a casa alla in Commissione, ma che ti frega? Ma chi è che deve? Ma no, voglio sapere chi è il deputato. Mi immagino il commissario europeo che dice "What is empty?" Cioè che rimane lì sconvolto quando gli arriva l'interrogazione sul tavolo. Scusa. Dai, su, no. Scusami, David, ma ogni giorno noi leggiamo sui giornali italiani, da quelli più impegnati a quelli di gossip, che cosa fa un altro cane che si chiama Dudu. Sì. Leggiamo quante volte sto cane fa la pipì, che cosa mangia, dove dorme. Oh no, ci sono decine, io sto facendo una collezione, centinaia di agenzie di stampa su quel che fa Dudu la mattina e come sveglia il presidente, no? il suo padrone, vabbè, che la sua compagna. Certo. Allora io chiedo, tu vuoi sapere che fine ha fatto Empi? Allora io ti prometto che noi seguiremo passo passo l'evoluzione di questa vicenda. Voglio capire se c'è qualcuno alla Commissione europea in Europa prende questa carta in mano prodotta dal signor Sergio Silvestris, deputato europeo del PDL, e voglio vedere se si attiva qualche ufficio, anche l'intervento di Taormina. Te lo prometto a me farebbe piacere che il presidente Monti dicesse di tenere con cura o di aver dato a qualcuno che tiene con cura questo cane, vabbè, vedremo. E invitasse sì, tutti quelli che lo ascoltano quando sì, va in un talk show ad adottare un cane da un canile. Vabbè, vedremo. Devo chiudere. A domani 18:30. Seguiremo la vicenda Empi. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma però, perché se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! E non sono... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Radio 24, la passione si sente.